Sai su Radio Wombat. Questa è Radio Wombat. Radio Wombat. 8 Hertz. Bentornati a 8 Hertz, questi erano i Battle Surfers con Doom Doom, un pezzo famoso loro tratto dal primo disco, prima ho fatto un EP o due, si chiama Psychic Powerless Another Man Sucks, e sono di Sant'Antonio Texani. Sarà una puntata che si divide tra più o meno tra l'America e l'Italia. E si chiama, l'ho voluto intitolare Dopo il punk, con un punto interrogativo, come dire cosa c'è dopo il dopo punk, che tempo fa abbiamo un po' ascoltato con le produzioni dell'etichetta americana SST, quindi ancora non abbiamo parlato del post punk europeo, che ha avuto una grossa parte in tutto ciò, ma noi siamo zozzi e quindi ci piace l'America e il disagio americano, per cui abbiamo un po' messo questo pezzo. la puntata un po' volge, cioè si va un po' a guardare cosa succede dopo che questi gruppi, anche come Battle Surfers, hanno seminato sulle generazioni successive, poco dopo successive degli anni 90, anche qualcosa dei primi 2000, però vabbè, insomma, così faccio quello che posso per la mia cultura musicale. Insomma, piano piano, insomma, vedremo un po' che le linee di basso forse sono un po' preminenti in questa puntata, o i ritmi serrati. Tra l'altro, i Battle Surfers in questo periodo, nel brano che abbiamo messo, che era dell'84, avevano una doppia sezione ritmica di batteria che veniva suonata in piedi, chi suonava più i piatti, chi suonava più i tom e i timpani. Potete, se riuscite a trovare su internet, Music That Blind Can't See, un documentario con pezzi live su di loro dell'epoca, e potete capire un po' quanto erano di fuori e quanto poco di fuori sono oggi le band, tra l'altro, che fanno il verso. Metto un altro gruppo sempre storico dell'81, ma loro non sono né americani né italiani. Ma sono australiani. Era la prima formazione che ha avuto Nick Cave. Si chiamano Birthday Party. Il pezzo si chiama Nick the Stripper. C'è stata un'interruzione, ma noi andiamo avanti uguale. Era un bellissimo pezzo dei Birthday Party, vabbè, lo rimetteremo. Anni dopo è uscito un altro gruppo che si chiamano Cop Shot Cop americani di New York, che sono attivi dall'87, erano attivi perché ora non suonano più. Hanno fatto svariate cose, erano famosi nel periodo perché avevano due bassi. Tra l'altro, si narra che uno dei due bassisti era un barbone che era stato trovato fuori dalla loro sala prova. Gli hanno detto: "Ma te suoni? Sì, cosa suoni? Il basso?" "Ah, vieni a suonare." E così hanno fatto roba violenta, simile Birthday Party. Il pezzo che andiamo a ascoltare è tratto da Release del 94, quindi molti anni dopo, che è un disco un po' più commerciale rispetto alle cose che facevano prima. Hanno provato a sfondare anche attraverso le major, ma non sono riusciti molto. Si chiama It's Only Hurts When I Breathe. Fa solo male quando respiro. E allora, questo pezzo è dedicato a Coito Negato, che nell'ultimo live che è stato a vedere si è troncato tre costole. Coito Negato è un grande disegnatore, fa un sacco di artwork belli. E cercatelo su Facebook. No, il sito ancora non ce l'ha, ma non lo fa, è duro. Comunque, vabbè. C'era un altro gruppo americano, sempre negli anni 80, che si chiamavano Flipper, più o meno dei primissimi anni 80. Tra l'altro, Kurt Cobain indossava sempre magliette dei Flipper perché c'era fissatissimo. Loro sono un po' i padri del noise rock o noise punk, come cacchio lo volete chiamare, che erano a un livello di afonicità strumentale veramente vergognosa, che però ha segnato un passaggio verso qualcos'altro. Tra l'altro, tanti pezzi loro non hanno ritmiche veloci, punk, hardcore, assolutamente no. Come in questo pezzo che è tratto da Generic, in realtà si chiama album Generic, poi sotto più piccolo Flipper dell'82, e si chiama Ever, è il pezzo che apre l'album. Con Ever del 1982 con gli applausini dietro. Ecco, secondo me hanno creato mostri musicali come i due che andremo a ascoltare a seguito. I primi che vi metto sono gli Helmet, entrambi newyorkesi. Helmet con Biscuits for Smart, tratto da Betty del 1994, già per etichette molto grosse, agivano già così. E il brano successivo è dei grandi Unsane, che si chiama Last Man Standing, tratto da Viskin del 2007. Sono tutti e due colossi del noise rock, tant'è vero che tutti i gruppi vengono influenzati da loro, e secondo me loro erano influenzati dai Flipper. Ascoltiamoceli insieme e un po' godeteveli. E questi ultimi erano gli Unseen, prima abbiamo ascoltato gli Helmet, gli Unseen, che dire, chi non li ha ascoltati dal vivo non può capire come la semplicità può veramente buttare su tutto. E adesso un altro gruppo storico, hanno iniziato sì, a finissimi anni 80, più che altro la loro carriera l'hanno fatta nel 90. Sono i Fugazzi, che poi vengono anche considerati emo core o post rock, insomma tutto quello che vi pare, ma sono e saranno sempre Fugazzi. Questo pezzo è tratto dal primo LP loro. Prima hanno fatto un EP o due, se non sbaglio, e si chiama Repeater, è famosissimo e ora ce l'ascoltiamo insieme perché ha influenzato cose che secondo me hanno a che fare con la puntata. Thank you. E in quegli anni usciva anche un altro gruppo importantissimo che si chiamano Shellac. Secondo me erano anche un po' influenzati dai Fugazzi, che era il gruppo di Steve Albini dopo i Big Black. E ci andiamo quindi a ascoltare un pezzo tratto dal primo album, che si chiama Tucson Park del 94, si chiama My Black Ass, sempre pudico Steve Albini. Noi ce l'ascoltiamo indegni, però capendo un po' che questo modo di suonare che aveva proposto Steve Albini ha influenzato un sacco di gente che poi avrà fatto successivamente del post rock. Dopo la furia distruttiva degli Shellac, così tagliente nei suoni e minimale nelle ritmiche, mi piace mettere un gruppo che si chiama Trans AM del Maryland, un gruppo anni 90. Tante cose in questa puntata sono degli anni 90, come potete ascoltare anche come sonorità. È un gruppo un po' particolare, perché è quasi elettronico come modo di suonare, ma in realtà è strumentale, batteria, chitarra, basso, però qualcuno poi si sostituisce e fa sinterelli vari, ritmiche poco espressive, un po' da drum machine, diciamo, però suonate. niente, c'è questo disco che è bellissimo, che si chiama Future World del 99, al quale sono molto legato e mi ha anche insegnato tante cose e mi sono fatto anche tanti flash. Quindi metto il secondo pezzo perché il primo del disco è tipo una chitarra solista che suona un po' anche un po' tamarra. E il secondo parte così con Television Eyes. Sono i Trans-Am, il pezzo si chiama Television Eyes. E da qui vorrei iniziare a parlare un po' di amici, e Non ci saranno solo amici nei pezzi che ho incontrato e che metterò, ma questo pezzo che vado a mettere sì, sono i loro. La seconda ho sbarrata, se qualcuno li vuole cercare non li conosce. Sono un gruppo veneto che ha fatto solo un disco, uscito mi pare l'anno scorso. Vorrei anche salutarli, Cicas Moniz e l'altro che conosco meno. Tra l'altro suonano anche nei Rosario, che è un gruppo un po' psycho, stoner e derivati. E sono molto collegati a Transam, ce l'ho ritrovati tanto. E adesso metto Pollock, che è il primo brano dell'apertura del disco. Power Trio, ma anche Power Duo, perché si esibiscono anche solo in due, senza l'elettronica, spaccano uguale. Un duo come gli Holiday Inn, che metto ora a bomba, che sono di Roma, sono assolutamente fantastici dal vivo, in registrazione sono molto simili tra l'altro. Salutandoli li metto con Mob Mob Mob, che è un pezzo split insieme agli Alleluia. Ma gli Stooges chi sono rispetto agli Holiday Inn? Nessuno, diciamocelo. E vabbè, questi personaggi li ho conosciuti nell'ambiente emiliano più oscuro, più, come si può dire, più vero, ecco, anziché più oscuro. Attorno all'interno di, o attorno a un locale, a Santo Stefano Spino, no? San Martino Spino, lo sapevo che sbagliavo. San Martino Spino, che si chiama Barzon Vec, attenzione alla pronuncia. E insomma, in questo locale sono un po' di casa, come di casa il gruppo che metterò ora, che si chiama pazzescamente Sex Offenders Seek Salvation. E il pezzo è tratto da un vinile che è un EP che si chiama Todo Magnitudo, assoluto tanto anche loro, ascoltatevi Il Delirio. Sex Offenders Seek Salvation, mi hanno narrato che suonavano vestiti da giocatori da basket, e non lo so, mi narrano che erano anche imperdibili. Ora da un pochino che non suonano, li rivogliamo attivi su tutte le migliori piazze. Ok, facciamo un attimo un break, ricordandovi un po' i social di Radio Wombat. Vabbè, il sito che è wombat.noblogs.org, ovviamente tutto con la W di Wombat, come vittoria, come win, you win. Poi c'è un Twitter che si chiama Twitter, sempre con la W Twitter, per chi non lo sapesse, twitter.com/radiowombat.fi. Slash come slash dei Guns N' Roses, quindi scrivete slash e non la barra, mi raccomando. Poi Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la mail, che è quella alla quale teniamo di più, che si chiama postawombat@insiberia.net, nella quale potete scriverci insulti o potete mandarci proposte, potete mandarci anche pezzi di gruppi, potete mandarci quello che cavolo vi pare. E tra l'altro anche sul sito, sotto i podcast che verranno messi, ci sono anche degli spazi per i commenti. Mi raccomando, usateli, perché qui non li usa nessuno, è un po' un peccato. Tra l'altro, se andate nel sito, potrete leggere anche del contest che finisce, mi pare, intorno al 21 o 20 febbraio, sul logo della radio, per cui verranno stampate magliettine, gadget e torte anche, verranno fatte con il logo di Post Wombat, e chi vince diventerà famosissimo. Ok, quindi questo era quello che succedeva per ora. Dopo il punk, continuiamo a vedere cosa succede dopo il punk, soffermandoci un po' sull'elemento che non è predominante, quale la solita cacchio di chitarra, ma pensando un po' all'espressività che un basso può rendere nella musica dopo il punk. Per cui intanto metterò due o tre gruppi portanti, le colonne portanti dei bassisti che sono un po', come si può dire, snervati dall'egomania dei chitarristi. E qual è il gruppo principale per i ragazzi, i ragazzini e le ragazzine di oggi? I Primus. E quindi American Life, tratto da Selling the Seas of Cheese del 91, era comunque un pezzo meraviglioso. They look to the Statue of Liberty. c'è un duo che negli stessi anni ha iniziato a fare musica. A differenza di Paramus erano solo due, basso e batteria, senza troppi artifici. Il basso, a parte il suono pulito, aveva il suono distorto e basta. Li abbiamo visti qui nella zona fiorentina praticamente ogni anno, fino a che non si sono sciolti. Sono i Sabò e li andremo a ascoltare con un pezzo tratto dall'ultimo disco, che è del 2008, che si chiama Farther Conversation. Il pezzo è Start to Finish. Insieme mettiamo un altro power trio anziché duo, che si chiama No Means No. Sono veramente famosi, sempre nel sottosuolo della musica, non per la massa, diciamo. Un pezzo tratto da un disco che si chiama Wrong, che secondo me è il più bello, dell'89, anche se loro sono attivi dall'82, e il pezzo si chiama Rags and Bones. Per cui prima Sabbath e poi No Means No e poi so cazzi. We'll be right back. Questi erano i No Means No e prima erano i Sabbath, erano due esempi di come il basso può creare tessiture narrative nell'arco di un brano, così come succede nel pezzo e nel gruppo che vi farò ascoltare ora, che sono della nostra zona, sono gli Elettrocapra, Metto un pezzo dell'unico disco che finora hanno fatto, che è L'avvento della grande bestia, e li saluto tanto. Si chiama La Mazurka della Rivoltella, che è uno dei miei brani preferiti, dove appunto il basso tesse un po' il mood della situazione, la batteria gli dà conforto o gli scassa la minchia, e dove la chitarra fa quello che cacchio gli pare, e mi viene a pensare come un po' come un gatto che monta sopra un pianoforte e fa un po' gli affari suoi. E quindi li metto, secondo me sono un po' quello che succede dopo i Nominzinhoi, i Sabot, i Primus, insomma queste cose che vi ho messo prima, così come ci saranno dopo altri fior fior di Dui o Power Trio che esaltano la componente ritmica che nel metal è solo un rafforzo. La mazurka della rivoltella elettrocapra. Ed erano gli Elettrocapra con la Mazurka della Rivoltella. Tra l'altro, dopo un periodo di pausa, rinizieranno a suonare a brevissimo per ora in questa zona. Se leggete un po' il loro Facebook, troverete le date che faranno se siete appunto della zona di Firenze. Adesso bomba, visto che non ci rimane mai tantissimo tempo, metto altri esempi che ci stanno di modi di fare comunque differenti, ma uniti nella voglia di creare qualcosa con il fatto preponderante di basso e batteria sempre in prima linea. E quindi vabbè, gli Zoo con un pezzo che si chiama Actonian, tratto da Carboniferous del 2009, e i Morkbot con un pezzo tratto dall'ultimo disco proprio recentissimo, sempre per la Supernatural Cat, che si chiama Ogrog. Ce l'ascoltiamo entrambi e secondo me mandano fuori di testa. A dopo. Thank you. Morcobot. We'll be right back. nell'imposizione del basso sulla chitarra non poteva non mancare un gruppo come gli Zeus, che è un power duo di basso e batteria, che sono bravissimi e dal vivo veramente spaccano tutto, e li saluto. E il brano che metto è tratto dall'ultimo disco, perché fa sempre piacere far sentire roba dell'ultimo disco, ma anche le cose dei dischi precedenti sono bellissime. Ho avuto un po' l'imbarazzo della scelta, per cui li rimetterò in qualche altra forma nelle puntate. L'ultimo disco si chiama Moto Monotono, del 2015, e il pezzo è quello di apertura, che si chiama Enemy e Core. Bravissimi. Sì, c'era questa storia qua, ma ora partono. qui siamo sul virtuosismo aggressivo che secondo me fa impallidire anche la Zadig, la famosa etichetta di John Zorn che ha sfornato un sacco di gruppi e musicisti esteri. Secondo me anche qua in Italia c'è roba del genere, se non meglio. Loro erano un esempio, così come erano i Morkbot, così come ovviamente sono gli Zuma, già nel mondo sono più conosciuti. Un altro gruppo, un altro esperimento che vi voglio fare ascoltare sono un'unione di gruppi, anzi una sorta di sfida tra i Surgical Beat Bros e i Bologna Violenta. Appunto questo EP è uscito su Flexi, che sono qui in quei dischetti che poi ci puoi fare aria se li sventoli vicino a te, che sono dei vinili finissimi, picture disc, tutte queste cose qua, e si chiamano, appunto si chiama Surgical Beat Bros versus Bologna Violenta. Il pezzo si chiama ZBB o ZBB, non lo so. Comunque loro sono veramente fuori, sono stra fuori a bestia. Li saluto sia il lato romano dei Zitarelli, sia il lato veneto di Manzan, e Sandro non lo saluto. Surgical Beat Bros versus Bologna Violenta, quando il free jazz si unisce alla classica, alla distorsione, all'elettronica, ai loop, insomma, a una forma espressiva piuttosto contemporanea. Così come c'è un po', ci sono questi ingredienti nei gruppi che abbiamo ascoltato precedentemente. Siamo alla fine. So che questa trasmissione, come tutte le altre di Radio Wombat, da questa settimana saranno in replica. Non vi so spiegare quando, perché e come, ma lo saranno. Per cui, se ascoltate lo streaming in generale, vi potete imbattere, ahimè, anche in questa trasmissione almeno un paio di volte nei prossimi giorni. E comunque verrà data in podcast, per cui insomma ascoltatela, se no smetto. L'ultimo brano, e poi vi lascio, appunto, è connesso a tutto quanto che a tutto quello che abbiamo ascoltato, una sorta di, volendo, sermone, una sorta di raga, insomma, una cosa un brano sul quale vi potete auto-ipnotizzare o insomma sfruttare a vostro modo e piacimento, non dico altro. E si chiama, loro sono gli Ultralid, che sono un gruppo norvegese, tra il jazz, il jazz rock, il jazz core, un po' come abbiamo sentito prima. Il disco è del 2010 e si chiama Inertia Drome. Drum. Il pezzo è Geodesic Portico, non so cosa vuol dire sinceramente. Di questo gruppo so che il sassofonista è tale Frode Gjerstad, che è abbastanza conosciuto nell'ambiente jazz. Con questo concludiamo. Se siete arrivati alla fine, ascoltate pure questo brano. Spero di avervi lasciato qualcosa dentro, anche un po' antichitarra. Ci sentiamo settimana prossima, sempre 8 Hertz, il giovedì, sempre alle 9. Baci, abbracci, no, ma solamente pensare a fare le cose sempre e solo a proprio modo.